fanno pena gli uomini di successo che hanno la schiena sul divano, che ha già incontrato il vero amore o si è sposato da almeno 20 anni, che guarda il mondo dal suo grattacielo e superata l'illusione vive la consapevolezza di aver già scritto la sua più bella canzone. Meno male c'è, meno male se, meno male che io posso dire meno male, meno male quanta strada ancora, meno male se non vedo l'ora, meno male che voglio arrivare, meno male. Hai mai pensato di tornare un po' indietro, fino al tuo record personale, salire in sella ad un rimpianto, partire in cerca del tuo luogo ideale, magari iscriverti a filosofia, ricominciare la partita, oppure prendi per un po' la mia, io ti regalo un pezzo della salita. Meno male che devo cercare, meno male illudermi e sperare, meno male che io posso dire meno male, meno male c'è tutto il futuro, meno male se non è sicuro, meno male che posso sognare, meno male. Come una casa in un posto migliore, su una montagna in mezzo al mare, o su un pianeta quasi deserto, dentro lo spazio aperto. Ho tutto un cielo dove navigare, volare in alto per sentirmi meglio, come un bel sogno da fare sveglio. Meno male che devo inventare, meno male scegliere e sbagliare, meno male poi ricominciare, meno male. Meno male che qui piove ancora, meno male sento un po' paura, forse scriverò la mia futura domani. Meno male, meno male, meno male, meno male, meno male, meno male.